Certo, quale forma si profilasse ai miei occhi nel nome Germain, quando la mia balia, che sicuramente ignorava come io stesso oggi ignoro in onore di chi fosse stata composta, mi cullava con la vecchia canzone «Gloria alla Marchesa di Germain», o quando, alcuni anni dopo, ai Champs-Élysées, il vecchio maresciallo di Germain, colmando d'orgoglio la mia domestica, si fermava a commentare «Che bel bambino!» e tratta di tasca una bomboniera mi offriva una pastiglia di cioccolato, questo non lo so dire. Gli anni della mia prima infanzia non sono più dentro di me, mi rimangono esterni, non posso apprenderne nulla, come di ciò che è avvenuto prima della nascita, se non dai racconti degli altri. Ma più tardi, nella durata in me di quello stesso nome, trovo disposte in successione 7 o 8 figure diverse. Le prime erano le più belle. A poco, spinto dalla realtà ad abbandonare una posizione indifendibile, il mio sogno veniva via via attestandosi un po' più in qua, finché non fosse costretto a ripiegare ulteriormente. E, con Madame de Germant, si trasformava in pari tempo la sua dimora, generata anch'essa dal medesimo nome che questa o quella parola, il cui ascolto sopraggiungeva a modificare le mie fantasie, riflesse dalla dimora delle sue stesse pietre, fattesi specchianti come la superficie di una nube o di un lago, d'anno in anno fecondava. Un torrione privo di spessore, nient'altro che una striscia di luce aranciata, dall'alto del quale il signore e la sua dama decidevano della vita e della morte dei loro vassalli, aveva ceduto il posto, ai confini estremi di quella parte di Germain, dove in tanti pomeriggi sereni seguivo con i miei genitori il corso della Vivonne, al territorio ricco di torrenti, dove la duchessa mi insegnava a pescare la trota e a dare un nome ai fiori dai grappoli violacei e rossastri che ornavano le basse recinzioni delle tenute circostanti. Poi era stata la volta della terra ereditaria, del poetico dominio dove la razza altera de Germant, simile a una torre che, biondeggiante di rosoni, avanzi attraverso i secoli, svettava già sulla Francia quando ancora il cielo era vuoto, laddove in seguito sarebbero sorte Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Chartres. Quando sulla cima della collina di Laon la navata della cattedrale non si era ancora posata, come l'arca del diluvio, sulla cima del monte Ararat, gremita di patriarchi e di giusti che ansiosamente si sporgono dalle finestre per vedere se la collera divina si sia placata, carica di tutti i tipi di vegetali destinati a moltiplicarsi sulla terra, straripante di animali che sbucano persino dalle torri dove qualche bue, passeggiando tranquillamente sulla copertura dell'edificio, contempla dall'alto le pianure della Champagne. Quando il viaggiatore che, sul finire del giorno, lasciava Beauvais, non vedeva ancora le ali nere ramificate della cattedrale seguirlo volteggiando, spiegate contro il sipario d'oro del tramonto. Era il Germant d'allora come la cornice di un romanzo, un paesaggio immaginario che tanto più desideravo di scoprire quanto più duravo fatica a rappresentarmelo, incuneato tra terre e itinerari reali che tutto a un tratto, a 2 leghe da una stazione ferroviaria, si impregnavano di particolarità araldiche. Ricordavo i nomi delle località contigue come se queste si fossero trovate ai piedi del Parnaso o dell'Elicona e mi sembravano preziose come, nell'ambito della scienza topografica, le condizioni materiali legate al prodursi di un fenomeno misterioso. Rivedevo gli stemmi dipinti sui basamenti delle vetrate di Combray, i cui quarti si erano riempiti, secolo dopo secolo, di tutte le signorie che l'illustre casata aveva fatto volare a sé per via di matrimoni o acquisizioni da ogni angolo di Germania, Italia, Francia, immensi territori del nord, potenti città del mezzogiorno, venuti a congiungersi e combinarsi in Germain e a descrivere allegoricamente nel suo campo azzurro, perdendo la propria materialità, un torrione verde smalto o un castello d'argento. Avevo sentito parlare dei celebri arazzi di Guermantes e li vedevo, medievali e turchini, un po' grezzi, stagliarsi come una nube sul leggendario amaranto del nome, ai piedi dell'antica foresta dove così spesso cacciò Childeberto, e quella misteriosa profondità delle terre, quella lontananza dei secoli, mi sembrava che avrei potuto penetrarne, come viaggiando, i segreti, se solo mi fosse riuscito ad avvicinare un istante a Parigi Madame de Guermantes, sovrana del luogo e signora del lago, quasi che il suo volto e le sue parole dovessero necessariamente possedere lo specifico incanto delle fustaie e delle rive e le medesime, secolari particolarità dell'antica raccolta di norme consuetudinarie conservata nei suoi archivi. Ma a quel tempo avevo conosciuto Saint-Loup. Da lui avevo saputo che il castello si chiamava Guermantes soltanto dal XVII secolo, quando la famiglia l'aveva acquisito. Prima, essa aveva avuto la propria residenza lì vicino ed il suo titolo non veniva da quella regione. Il villaggio di Guermantes aveva preso nome dal castello presso il quale era stato costruito e una servitù rimasta in vigore regolava il tracciato delle strade e limitava l'altezza delle case per non alterarne le prospettive. Quanto agli arazzi, erano di Boucher. Li aveva comprati nel XIX secolo un Guermantes appassionato d'arte e stavano appesi, accanto a mediocri scene di caccia da lui stesso dipinte, in un orripilante salotto drappeggiato di raso rosso e di peluche. In seguito a queste rivelazioni, con cui Saint-Loup aveva introdotto nel castello elementi estranei al nome Guermantes, non mi fu più possibile continuare ad estrarre unicamente dalla sonorità delle sillabe la muratura degli edifici. Scomparso in fondo al nome il castello riflesso nel lago, intorno a Madame de Guermantes, mi era apparsa come sua dimora la residenza di Parigi, il palazzo Guermantes, limpido come il suo nome, senza nessun elemento opaco e materiale che ne interrompesse o offuscasse la trasparenza. Come chiesa non designa solo il tempio, ma anche la comunità dei fedeli, così Palazzo Guermantes comprendeva tutti coloro che partecipavano della vita della duchessa. Ma questi intimi, che non avevo mai visti, non erano per me che nomi celebri e poetici, e dal momento che conoscevano unicamente persone, le quali erano a loro volta semplici nomi, non facevano che ampliare e proteggere il mistero della duchessa, stendendole tutto intorno un vasto alone che, al massimo, andava gradatamente sfumando. Nelle feste che dava Madame de Guermantes, poiché non immaginavo per gli invitati né corpo, né baffi o stivaletti, né frase pronunciata che fosse, non dico banale, ma nemmeno originale nel senso umano e razionale del termine, il turbinio dei nomi, non raccogliendo intorno a quella statuetta di porcellana di Saxe che era la duchessa più materia di una cena di fantasmi o d'un ballo di spettri, conservava al suo palazzo di vetro la trasparenza di una bacheca. In seguito, dopo che Saint-Loup m'ebbe raccontato alcuni aneddoti relativi al cappellano, ai giardinieri di sua cugina, il palazzo Guermantes era diventato, così come un tempo poteva esserlo stato un Louvre, una sorta di castello circondato, nel centro stesso di Parigi, dalle sue terre, posseduto a titolo ereditario in virtù di un antico diritto bizzarramente sopravvissuto e sulle quali la duchessa esercitava ancora privilegi feudali. Ma quest'ultima dimora era a sua volta svanita quando eravamo venuti ad abitare vicinissimo a Madame de Villeparisis, in uno degli appartamenti confinanti con quello di Madame de Guermantes, in un'ala del suo palazzo. Era una di quelle vecchie dimore, come forse ne esiste ancora qualcuna, il cui cortile d'onore, si trattasse di detriti accumulati dall'alluvione della democrazia o di lasciti di tempi più antichi, quando diversi mestieri gravitavano intorno al signore, aveva spesso sui lati dei retrobottega, dei laboratori, se non addirittura qualche botteguccia di calzolaio o di sarto, simili a quelle che si vedono addossate ai fianchi delle cattedrali che l'estetica degli ingegneri non ha ancora ripulite, o un portiere ciabattino che allevava polli e coltivava fiori, e in fondo, nella parte della costruzione che faceva palazzo, una contessa che quando usciva nel suo vecchio calesse a due cavalli, col cappellino ingentilito da qualche nasturzio appena scappato, si sarebbe detto, dal giardinetto della portineria e accanto al cocchiere un lacchè incaricato di distribuire biglietti da visita con l'angolo ripiegato in tutti i palazzi aristocratici del quartiere, elargiva indistintamente sorrisi e lievi cenni di saluto ai figli del portiere e ai locatari borghesi dello stabile che passassero in quell'istante e di cui lei, nella sua sdegnosa affabilità e nel suo sussiego egualitario, faceva un sol fascio. Nella casa dove ci eravamo trasferiti, la gran dama in fondo al cortile era una duchessa, elegante e ancora giovane. Era Madame de Guermantes. E grazie a Françoise, non tardai ad entrare in possesso di informazioni sul palazzo. Infatti Guermantes, cui Françoise si riferiva spesso con le locuzioni «di sotto, da basso», costituivano la sua costante preoccupazione dal mattino, quando, pettinando mia madre, lanciava un'occhiata proibita, irresistibile e furtiva in cortile per poi commentare «Toh, due suore, vanno sicuro di sotto!» oppure «Che belli quei fagiani alla finestra della cucina! Inutile chiedere da dove ti vengono, il duca sarà stato a caccia!» fino alla sera, quando, se nel portarmi l'occorrente per la notte, sentiva un rumore di pianoforte, un eco di canzonette, ne deduceva «Da basso, hanno gente, c'è allegria!» Allora nel suo viso regolare, sotto i capelli ormai bianchi, un sorriso della sua giovinezza, animato e dignitoso, metteva ben a posto, per un istante, ciascuno dei suoi tratti, armonizzandoli in un ordine fine e un po' affettato come per una contraddanza. Ma il momento della vita di Guermantes che più suscitava l'interesse di Françoise, le dava più soddisfazione e insieme le faceva più male, era per l'appunto quello in cui si spalancavano entrambi i battenti del portone e la duchessa saliva sul suo calesse. Accadeva di solito poco dopo che i nostri domestici avevano finito di celebrare quella sorta di solennità ebraica, cui nessuno doveva recare turbamento, che era il loro pasto del mezzogiorno, durante il quale erano essi stessi così tabù che nemmeno mio padre si sarebbe mai permesso di suonare per chiamarli, ben sapendo, d'altronde, che nessuno si sarebbe scomodato alla quinta scampanellata più che alla prima e che egli avrebbe dunque commesso una sconvenienza in pura perdita, ma non priva per lui di conseguenze negative. Infatti Françoise, che da quando era vecchia assumeva in ogni situazione quella che si chiama una faccia da circostanza, gli avrebbe immancabilmente presentato per l'intera giornata un viso coperto di piccoli segni cuneiformi e rossastri, destinati a manifestare esteriormente, ma in modo quasi indecifrabile, l'interminabile lista delle sue lagnanze e le ragioni profonde del suo scontento. Le sviluppava del resto anche verso le quinte, ma senza che riuscissimo a distinguere bene le parole, atteggiamento che lei definiva, supponendolo per noi motivo di disperazione, di mortificazione, di offesa, dirci per tutto il santo giorno le giaculatorie.